Sì, in questo momento abbiamo iniziato quello che stiamo chiamando il tour della vergogna all'interno degli edifici delle Poste di Zenardi 28. È un modo di segnalare quella che è una caratteristica purtroppo molto diffusa nella nostra città, soprattutto nella periferia nord della nostra città, dove appunto ci sono decine e decine di edifici abbandonati che potrebbero essere destinati a quelle che sono iniziative sociali, politiche e culturali e che invece vengono tenuti artificialmente e volontariamente in uno stato di abbandono e di degrado. È il caso appunto dell'edificio, degli edifici delle Poste di Via Zenardi 28, che da più di 20 anni ormai sono lasciati in un abbandono palese all'interno dell'edificio, che è stato aperto qualche decina di minuti fa. Abbiamo appunto potuto constatare come da un lato bottiglie di vetro piuttosto che siringhe, piuttosto che tutta una situazione di degrado generale sta di fatto ormai la caratteristica di questo posto. Invece appunto, come abbiamo sempre detto, all'interno della campagna Crash Again dopo lo sgombero dello scorso 8 agosto, questi spazi potrebbero essere affidati all'autorecupero e alla rigenerazione da parte di chi come noi ha progetti per il territorio. Quindi, insomma, con questo vogliamo denunciare questa condizione, questa situazione e farlo appunto attraverso un'azione di recupero dal basso. Infatti abbiamo visto che le trattative per una nuova sede, insomma, sono pressoché fallite. Voi avete denunciato qualche giorno fa, qualche settimana fa, il fatto di come tutto si fosse arenato. Te lo chiedo in modo molto esplicito: è una visita temporanea o Crash ha trovato una nuova casa? No, questa è una visita che ha l'intenzione di sollevare temporaneamente la questione. Una visita che vuole appunto fare vedere come sia all'interno della città la possibilità di dare spazio a tantissime esperienze sociali, politiche e culturali all'interno di spazi che sono lasciati all'abbandono. Quindi questo è una temporanea disvelazione di quello che è uno degli edifici simboli di questo stato delle situazioni, ma sicuramente questa disvelamento temporaneo non sarà ripetuto da altre situazioni di questo tipo in futuro, se appunto non si arriverà alla soluzione di un'assegnazione di uno spazio a quella che è la nostra esperienza politica e culturale. Quindi sì, è una questione temporanea, ma che solleva un problema che sicuramente dovrà essere in qualche modo risolto. Quindi continuate a sollecitare le istituzioni perché si decidano a riconoscervi uno spazio. Quello che abbiamo segnalato con questa azione è una verità palese sotto gli occhi di tutti. Ci sono tante inchieste che hanno mostrato, ne cito una, ad esempio quella della redazione di Zec.it, di quante centinaia sono gli immobili che sono lasciati alla polvere in questa città e che potrebbero essere invece utilizzati in modo alternativo. Quindi, insomma, con questa vogliamo anche di fatto inchiodare poi un po' alle proprie responsabilità i vari decisori politici. In particolare sicuramente vanno però sottolineate le responsabilità di quello che è un mondo privato, come appunto quello di Poste, che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi comunque ha posto un fermo rifiuto rispetto alla possibilità che alcuni degli spazi che ha all'interno di questa città potessero essere affidati a progetti come il nostro. Quindi insomma vogliamo segnalare questa cosa e speriamo che appunto a partire da questa segnalazione si vada verso la direzione di un nuovo crash in qualunque mezzo questo debba insomma succedere.